Avventurieri, il mago ha ragione. La fenice dormiente potrà risvegliarsi solo se riscaldata nel modo corretto. Per attivare la combustione magica è necessario un preciso apporto di calore. Sappiate che la fenice ha una massa di 5 kg. Il suo calore specifico è pari a 2 joule su grammi per gradi centigradi e la sua temperatura deve aumentare di 10 gradi centigradi. Il calore si calcola con la formula. Energia termica è uguale a massa moltiplicata per calore specifico moltiplicato per variazione di temperatura. Ma attenzione! La massa va espressa in grammi. Date queste informazioni. Quanta energia termica in joule dovete fornire per risvegliare la fenice dal suo sonno fiammeggiante?